show. Quale animo sta in pace con se stesso, su ogni passo che si compie manca il fondo e non arriva mai un successo. Saggia la tua mente, non c'è verso di cambiarla, lo sa solo le tue colpe, ascolti il male che gli parla, la rabbia che ti mangia, che ti divora dentro. Senti il soffio della vita che ti rimane più spento, la solitudine uomo, la solitudine è questa. Rabbia su bottiglie di speranza manifesta, male alla testa, il tuo animo si infiamma, consumi la tua rabbia su di un foglio a pentagramma. Artisti, sono questi gli artisti, sono personaggi folli, anticonformisti. Non senti i passi di una logica ben piazza, c'è chi dice che sta gente è semplicemente pazza. Io penso che sta gente è alla vita che si ispira, ad ogni propria debolezza stappa una penna con ira. Dai,